Sicuro 10? Hola. 1, 2, 3, prova. Dopo, soccorso, mi ha fatto una strage, ha fatto tutti morti. Ciao Natalina, buonasera, capa di positivo, fratello. Tutto capa di positivo lì a quella zona, cambio. Capa capa. Tutto capa capa, questo. Io c'ho un altro spezzone, andate a cagare anche questo spezzone di merda che c'è qua. A me non mi stai ascoltando, Natalina. Con le orecchie ti ascolto. No, ci sono fischi, sta funzionando bene, boh. Non ce n'è fischi. Perché c'ho lo spezzone a casino qua. Sarà DRG58, tu sì, e chi si andano a fanculo? E infatti, adesso sto provando quell'altra radio. Come mi ascolti? A vedere, capa. Bene, bene, io l'ascolto bene con le orecchie, capa capa. Com'è questa radio? Va bene? E allora male va. Quindi è capa capa. Tu è ponente importante, va. Ma ponente importante a noi. Oh, eri tu che non stavi uscendo allora. No, cosa non stavo uscendo? A me me lo segna quando esco. Oh, era a 7. A chi io a 7 ti arrivo? Santiago, esce a vederti. Ah, ecco, era attenuato. Che è. Prova a vedere. Sì, guarda, guarda. Santiago 9 e 10, sì. Infatti, un momento fa ce n'è alcune importanti a me. E infatti, dai. Già va bene, già va bene. Bisogna provare la GBC se c'ha quegli spinotti, perché lui vende in Midland. Allora, praticamente Fusaro non ne aveva, perché io sono salito stasera e di quegli spinotti lì, Natalino non ce n'era. E ma Cabrua la GBC andava lì. E tu vendi in Midland, quindi ce l'avrà lo spezzone, lo spinotto, là. Non so cosa dirti, aspetta che mi cambio questo spezzone di merda. Capa capa. Capa capa, ok, lo spezzone ho cambiato. Non serve a niente quel capo qua. E basta che se ne vada appena appena un filetto e te lo manda a massa. Una merda di filo, guarda, ma veramente. Ma questi BL esibili, so che cazzato un iedu. Quei BL non ha vita, non è la ghiera, una cagata, guarda. Chi ci so chi si Fusaro, chi si non ha vita? Quelli di Fusaro, quelli lì. Ne ho preso un altro, niente da fare, non ha vita, non ha vita. Quell'affare c'ha tutto uno. Allora. Uno, due, tre, quattro. Quattro finali bruciati completamente. E si trovano. Però sai cosa aggustano? Non te lo dico, 20 euro uno. E là, quanti ne ha di finali? 5 ne ha. 100 euro. E tu euro zero rampo e esce un pareggio a nuovo, aspetta. E infatti. Non conviene ripararlo. Oh, ma non c'è per le balle. Non è vale proprio la candela. E perché magari invertono la parolità, ne fanno poco di casini. Avanno il bus manco provati, si apparecchio, ma cosa non faccio lo spinotto. Ma c'è nato, è nato lì. E adesso ho finito. Beh, gaba. Allora, se gli ordini da fuori costano 18 euro l'uno più 5 spedizioni. Ce ne vanno 5, fate il calcolo. Tutte e 5 bucati sono, tutte e 5 bucati, oltre la pista che ha bruciato. Ci sono tutte e 5 finali crepati proprio, boh. E quando forse c'è stata inversione di polarità, boh. Ma la polarità ha invertito la trasmissione con l'antenna, ha schiacciato e ha bruciato quanto c'era. E anche. Ha messo la trasmissione all'antenna, l'antenna alla trasmissione, l'ha bruciato per quello, punto. E ma bruciarli tutti che... Tutti crepati sono tutti bucati, fusi, gappa gappa, hai capito, sono tutti crepati. Costano un centinaio di euro ci vogliono, 80-100 euro. Cos'è l'apparecchio così? Ma infatti, non aveva la candela. Comunque già va bene quella radio, dai. E almeno quello. Eh? Almeno quella. E ho riparato anche quello Zodiac. chiamala Bevidex. Funziona bene lo stesso. Ma che c'è già, qui c'è la KIA crepato, roba di danno, che. E che ci vuoi fare? L'esperienza aiuta a crescere. Cazzo di là. Andiamo bene, andiamo. Poco fa ero sul 23, non è entrato nessuno. Non c'era attore? No. Strano. Sì, magari era impegnato. Sicuramente sì. Oh. Adesso segnare quante date, a fondo scala, Prova. No, 9.20, sì. 9.20? E adesso sempre 9.20. E quando mi giro tu me lo dici. Adesso quant'è? Non ero attento, stavo guardando roba al computer qua. Guarda un po'. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 e 30. Già va bene, là. Quei capi di alimentazione ci sono su internet. 4,38 costa. Costa? Sì. E dove? Su eBay, su Amazon c'è. E allora conviene ordinarli. Sono 5x4, 25 euro. Là. E cosa? I finali. Oh, e così. Il capo di alimentazione per quel baracchino. Perché cosa? Fusaro non ne ha, capito? Da Fusaro non ce n'è, quindi o profili o te lo ordini da lì. E al limite da internet. Intanto la GBC te lo fa pagare il doppio. La GBC te lo fa pagare al doppio, tutto lì. Franco? Sì. Piace che mi ha dovuto riportare la carta a casa perché c'era una macchina e non potevamo passare nei cassonetti. E se posteggiato una macchina anch'io e quindi l'ha dovuto riportare indietro a chi non poteva aprire un cassonetto. Un casino lì il parcheggio è un problema, sta giù compresa a chi non aveva mai parcheggio di su lungo, mica c'è attorno al 23 e aiuto. Cambio, non c'è nessuno, cambio. Chi è, da dove viene e che mestiere fa? State tutti a masticare.